Allora facciamo la transizione alla quarta sessione nel quale parliamo di vita e rappresentazioni culturali di queste aree. E cominciamo con il Guadalquivir, con la dottora Morales, che parla della rappresentazione culturale del paesaggio del Bajo Guadalquivir attraverso la letteratura e il legato dell'antichità classica. Grazie, buonasera. Ringrazio l'organizzazione del congresso non soltanto per l'accoglienza in questa emblematica città, bensì anche per la possibilità che comporta affrontare il tema del congresso da una prospettiva artistica e multidisciplinare. Chiedo scusa per il mio italiano e vi chiedo il permesso di poter rispondere in spagnolo dopo. Il mio intervento si propone l'obiettivo di tracciare una linea di lavoro diretta a dimostrare il valore della letteratura come fonte per lo studio e l'interpretazione del paesaggio, limitandoci in questa occasione al quadro geografico del Basso Guadalquivir. Per far ciò, ci collocheremo da una prospettiva che unisce attraverso distinte manifestazioni letterarie, la cultura, il discorso letterario e il concetto di paesaggio, assi trasversali dai quali affrontiamo i diversi temi che nella tradizione letteraria plasmano l'immagine di questo territorio, cioè costruiscono la componente letteraria del paesaggio in questione. Un termine questo che consideriamo da un'ampia prospettiva. È legato a tre spazi complementari, estetico, scientifico e sociale, e la cui complessità è stata giustamente descritta da Ojeda Rivera in un magnifico articolo sul paesaggio e il romanzo contemporaneo. Lui raccolgono la definizione data dal geografo britannico. Il paesaggio comincia quando comincia l'emozione. E per questo motivo l'essenziale del paesaggio è la convergenza di percezioni soggettive che lo trasformano in patrimonio natural, cultural, cioè material, immaterial di una comunità umana. In questa cornice, dove l'emozione estetica sviluppa un ruolo essenziale, riteniamo che la letteratura, che è un prodotto culturale, non solo assuma pratiche culturali generali da altri ambiti, ma produca anche nuovi contesti particolari che si uniscono agli altri. Potremmo così affermare che la letteratura è, innanzitutto, un mezzo per sperimentare, leggere e interpretare il paesaggio in modo trasversale, già che in essa si incrociano ambiti che vanno dal pensiero e dalla storiografia fino alla tecnologia e la scienza. Inoltre è un'arte particolarmente permeabile e sensibile ai cambiamenti sperimentati dalle comunità in un determinato territorio e infine un supporto singolare delle sue diverse forme di manifestazione storica, estetica o filosofica. Allo stesso tempo che legge, però, la letteratura crea, modifica e genera nuovi paesaggi che si uniscono all'immaginario collettivo. La sua essenza di finzione comporta tale condizione. In questo modo scrive, riscrive, interpreta, anche eccessivamente, inventa o reinventa la realtà, costruendo discorsi che vengono assimilati nel patrimonio culturale. Ricordiamo come tema ricorrente la fama delle ballerine di Gades. Tutto ciò si porta a porre l'accento sull'importanza che i testi letterari hanno in questo insieme di discorsi che formano un paesaggio. Nel caso del Basso Guadalquivir è composto da numerosi vertici che confluiscono in vario modo attorno a un unico elemento, il fiume. Tuttavia, vogliamo mettere in risalto il fatto che ci troviamo nel suo delta, quindi nella sua connessione con il mare. Sottolineo, el mar le viene all'incontro ensanchando su cauce a fin de que sea grandioso y digno lugar para la entrevista de dos potentes soberanos. Cansado de arrastrarse por despobladas y monótonas marismas, llega al Guadalquivir a San Lucas, término de su carrera. Descripción de Fernán Caballero. E lo facciamo perché pensiamo che questo fatto sia un elemento essenziale che configura la particolarità di questo paesaggio. al porto fluviale, alle zone umide, alle vigne, alle risaie e agli allevamenti si uniscono le tonare, le saline, i balneari e tutto ciò che è legato al commercio con l'America. Tutti gli spazi menzionati hanno nella rappresentazione letteraria parte della loro concezione e apprezzamento socioculturale, in un percorso che presta alla conoscenza estetica collettiva manifestazioni così diverse come i miti, le immagini costumbriste o la lettura in chiave di realismo sociale. Le varie correnti e proposte estetiche si susseguono in una tradizione che lascia un'impronta profonda nella visione che un collettivo possiede nel proprio paesaggio culturale. In quest'ambito della letteratura si può affermare che, pertanto, un'incidenza reciproca tra paesaggi che ispirano o respirano nell'opera e opere che configurano paesaggi inesistenti che posteriormente vengono fatti propri. La letteratura possiede in sé stessa finalità diverse e queste implicano letture distinte del territorio, idealizzante, simboliche, rivendicativa, impegnate. Ecco qui due descrizioni della campagna andalusa di differente epoca e estetiche, il realismo del XX secolo e il costumbrismo del XIX secolo, e una coppia popolare con elementi della vita quotidiana vinculata al ruolo assegnato alla donna nel contesto tradizionale. Ognuno dei temi di questo complesso paesaggistico, costituito dalle forme di vita e dalla tradizione del Basso Guadalquivir, mostra un insieme di possibilità complesso sia per il numero che per la sua diversità. Solo nell'ambito che ruota intorno alla vendemmia e alla produzione del vino possiamo identificare paesaggi rurali e urbani nei quali la letteratura ha giocato un ruolo importante, a volte nell'idealizzazione degli stessi, altre nella sua scarna descrizione vincolata alla durezza del lavoro. Il vigneto e la cantina, per esempio, sviluppano attorno a sé universi differenti ma complementari. Sottolineo, era come una cattedrale, questa è una descrizione della cantina, però una cattedrale bianca, nitida, luminosa, con sue cinque navi separate per tre hileras di colonna di sencillo capitel. Agrandavase il ruido de los pasos, lo mismo che in un templo. La poesia di Borges colloca nel nucleo del nostro intervento. Dato che l'abbiamo sottolineato l'eredità dell'antichità classica, in questo assaggio dei testi letterari, ci soffermiamo anche su come si riprendono, rileggono e rielaborano gli elementi classici generati attorno al paesaggio del Basso Guadalquivir. Tutti contribuiscono a sfumare, a arricchire, a sommare quella visione estetica del territorio. Legate all'ambiente costiero sono forse le zone umide contribuiscono a formare lo spazio più rilevante del delta. Già nell'Iliade inizia una tradizione in cui appare la percezione positiva di questo paesaggio, che si aggiunge alla relazione dei prati e delle lacune con l'aldilà, così come i fondamenti che generano la simbologia dell'acqua con la fecondità e con l'universo femminile. Si mostra anche il lato meno amabile, caratterizzato da piogge torrenziali e inondazioni, che viene esemplificato con il frammento riferito al combattimento della muraglia. Sebbene percepiti come luoghi insalubri, la letteratura raccoglie una simbologia nella quale si contrappongono il salato al dolce, mare fiume, l'acqua profonda qual poco profonda, abisso lago, l'acqua torbide stagnati a che le sorvige, insieme alle immagini di diluvio e inondazione come processi rigeneratori interpretati in chiave di purificazione, rinnovamento e persino di perdita della verginità. Dopo l'ambiente di Doñana, costituito come riferimento essenziale, da un luogo a una gran varietà di letture, di paesaggi intertestuali che tracciano una costruzione immaginaria attraversata da ciò che è mitico e straordinario. Dalla Ora Marittima di Avienu fino a Doñana Todo Era Nuevo y Salvaje di Jorge Molina, i testi, sia quelli conosciuti come quelli ancora da scoprire, si intrecciano configurando un paesaggio globale, somma di tutti i paesaggi letterati, creati e letti. López Ontivero mette in evidenza tre valori vincolati agli usi di questo contesto territorio. Doñana, per il viaggiatore romantico, afferma, può oscillare tra l'ignoranza a percezione paesaggistica e all'esaltazione sinergetica e paesaggistica. Per quanto riguarda questo contesto, e accentuando l'interpretazione ancestrale dello spazio, emerge dalla penna di José Manuel Caballero Bonal la mitica Argonida, costruita in modo intenzionalmente metaforico, densa, simbolica, dove l'esercizio stilistico rappresenta una nuova ricreazione della costruzione del mito. Argonida emerge in due modi. Nel primo, trasformando la zona umida nel protagonista del romanzo Agatha Occhi di Gatto, intrecciando la prodigiosità con la quotidianità. Leggo, el caserío más próximo caía al otro lado de lo que fue la laguna de Argonida y era de gentes que acudían por temporadas al sanguinario arrimo de los mimbrales, mientras que más al sur, hacia los contrarios rumbos del delta primitivo, bullía la secta de las almadrabas, el mundo suntuoso y enigmático al que solo se podía ingresar a través de navegaciones fraudulentas o pactos ilegítimos con los patrones de los atuneros. El realismo sociale ci offre invece un altro profilo dell'Argonida nella letteratura di Alfonso Grosso, che realizza nella sua opera Por el río abajo una descrizione del paesaggio attraverso i misteri, la terminologia, gli utensili, i lavori e lo sovrascrive per mezzo di un linguaggio trasformato, di un codice che usa un'altra via nascondendo dietro all'aspetto mitico e illusorio, los cuerpos rebotando contro la nisca o hundiéndose en los lucios. Nel secondo, nella sua raccolta di poesie Diario de Argonida, per trasfigurare lo spazio vitale, intimo e personale del poeta, dove la memoria pende da note e ricordi. E l'Argonida, o tutta l'Argonida, riflesse nella sua opera il paesaggio esteriore in tutta la sua dimensione geografica, storica, estetica, che si trasforma adesso nel paesaggio vitale dell'artista, a cavallo tra la fantasia, la mitologia e la vitalità, che si muove tra ciò che è scritto e deve essere scritto. Il paesaggio viene fuori dalla fusione, per mezzo dell'esercizio letterario, della storia, dei luoghi, della memoria, di ciò che fu, di coloro che l'attraversarono e di quelli che l'attraversano. Memoria anche dell'Atlantique nei versi di Villalón. Leggo la prima parte. Triste región sin pájaros, hostil como la soledad de los garajes, la inclemencia del moho carcomiendo las rejas y una sierpe de aguas corruptas rectando hacia los sumideros. Insieme alle zone umide e ad esse legate, il paesaggio degli animali per la maremma ci introduce nel contesto del bestiame della regione attraverso due vie complementari. In primo luogo per il suo significato mitico, che ci colloca nel contesto del culto e della sacralizzazione del toro nell'ambito della Hispania romana. E in secondo luogo per l'importanza che riveste sulla sostenibilità economica della zona. Tant'è vero che in numerose occasioni tale attività è stata indicata, e la letteratura così lo ha ripreso, come un esercizio socialmente vincolato alla ricchezza e alle classi alti, in contrapposizione all'agricoltura propria delle classi più disagite. Rispetto al primo dei due significati, di nuovo l'Ora Marittima di Avenio ci trae alla memoria diversi di Alberti nella sua ora marittima, dove, nonostante la distanza temporale che le separa, entrambi coincidendono nel ricreare l'origine mitica di Tarteso e l'allusione al bestiame come elemento sacro. Gritos de Heracle el Fuerte retumban en la bahía, que se llevan a los toros, los bravos toros de Lidia, torbellino de testuces y de cuernos que se astillan, mugir del mar y del viento de las marismas. L'allevamento viene a delineare uno degli elementi fissi del paesaggio che si reiterò anche nel caso del poeta sivigliano Fernando Villalón, abitante di Morón de la Frontera, allevatori di tori da corrida e la cui ossessione per il mito di Argonida lo conduce a imprese impossibilite che lo portarono a spendere la propria fortuna nel tentativo di ottenere un allevamento di tori con gli occhi verdi, mito dell'Atlantide, e tutte le terre che potessero riguardare l'origine di Tarteso. La sua raccolta di poesie Andalusia alla Baja riunisce tutta l'essenza del paesaggio intorno al basso Guadalquivir, la visione mitica e leggendaria, il paesaggio della città e delle sue abitudini sociali, la campagna, i tratturi, la isola del Guadalquivir, in una simbiosi in cui l'idiosincrasia della zona si vincola alla vita agricola e all'allevamento del bestiame. Betis es plateado, no es azul este río, porque el mar océano le mueve las entrañas y sus peladas márgenes se estumecen de frío sin la sombra del fresno ni de las verdes cañas. Per concludere questo breve percorso, non vogliamo dimenticare di accennare alla risaia, un altro degli spazi caratteristici, e al commercio fluviale, quest'ultimo caso con tutte le connotazioni di apertura e cosmopolitismo che fecero del Golfo di Cadice un luogo di riferimento essenziale in Europa. La risaia. Riprendiamo questo spazio dal realismo sociale, attraverso un romanzo di Jorge Molina, romanzo documentario, a cavallo tra i racconti di viaggio, l'inchiesta giornalistica, la storia e la letteratura, dove la costruzione del paesaggio si allaccia alla coltivazione del riso nel contesto della Doñana degli anni 40. Il trattamento letterario del paesaggio gli imprime un taglio di complicità che si manifesta nella simbiosi della natura con l'individuo, del paesaggio rude e accidentato con la rudezza umana, della povertà del luogo con la miseria dei suoi abitanti, della marginalità della zona con la marginalità dei maestri vincolati all'attività della risaia, una simbiosi che marca una danza seguita all'unisono da tutti gli elementi, i simboli e i significati di questo paesaggio. Le necessità basiche también se hayan resuelta a medias entre el ingenio y la madre naturaleza. El agua mana clara y fresca a tres cuartas del suelo arenoso gracias a la poca profundidad del acuífero. Incluso algunos perforan en la duna con una caña cosa de un metro y logran así tener un grifo a su disposición. El fuego se alimenta por el género que los carboneros venden o con la madera de matorral de piñas. Y la comida se apaña entre lo comprado a los vendedores ambulantes que llegan al monte. Y algún conejo, agenciado cuando el guarda de Doñana por Santa Olalla no patrulla cerca. Alla fine il fiume e il commercio. Un'altra delle immagini di questo paesaggio costruito dalla letteratura lungo la storia è legata allo sfruttamento del fiume come asse essenziale del commercio, anche se, come abbiamo visto all'inizio della nostra presentazione, si interessa in particolar modo reiterare che ci troviamo nel tratto finale, nella congiunzione con il mare, perché questo fatto dà un senso molto particolare alla creazione di questa stessa vertente del paesaggio. È inevitabile ricreare ora che il paesaggio sorto dalla conquista dell'America e dal commercio con le Indie, che Huelva e Cadice convidano in differenti spazi letterari. Per quanto riguarda il commercio con l'America, possiamo fare riferimento a Calis, en latín Gades, es una ciudad situada en una isla. Allí se guarda un gran depósito de mercancía que vienen de la isla. Per finire, la letteratura è una lettura e una interpretazione estetica della realtà. costruisce paesaggi e li interpreta. Genera una tradizione di testi e pertanto di spazi, immagini, metafora, personaggi che entrano a formar parte anche del patrimonio culturale e della storia del paesaggio. Gli uomini creano i paesaggi e li trasformano secondo le loro ideologie e anche la tecnologia e l'estetica. L'uomo pensa come potrebbe essere il suo paesaggio e perciò lo trasforma. Abbiamo bisogno di ricercare in modo trasversale perché un paesaggio si pensa così o si capisce. E la letteratura è una forma interessante di fare questa ricerca. Questa ricerca, in questa linea, si chiama retorica culturale. Grazie per la sua attenzione. Muchísimas gracias para una presentación muy interesante y muy rica. Dunque, ¿ci sono domande sull'aspetto della retorica culturale? Bueno, sí. En primer lugar, me felicitarle por la intervención. Desde mi punto de vista ha sido muy sugerente, ¿no? Llena de muchas ideas en torno a esos paisajes literarios del agua. Que yo creo que es un tema de investigación que tiene recorrido y que entra bien además con el espíritu que estamos desarrollando en este congreso. De alguna manera, lo que más me ha llamado la atención, o una de las cosas que más me ha llamado la atención, es cómo a través de la literatura, e incluso también a través de imágenes que ha ido colocando, pero sobre todo a través de los textos literarios, se puede reinterpretar. Se puede reinterpretar paisajes no solamente contemporáneos a la obra, sino también paisajes pretéritos, paisajes anteriores, ¿no? Ya puede ser el caso de Tartesos, que tiene un larguísimo recorrido en la zona del Bajo Guadalquivir, como el aprovechamiento de las marismas, el aprovechamiento de humedales y demás. Desde ese punto de vista, y un poco le hago esta pregunta, el valor evidente del paisaje cultural, ¿no?, a través de la literatura, para poder entender esa recreación. Un poco esa sería la cuestión que le planteo. Gracias. Bueno, la idea básicamente es que los estudios literarios, es obvio que a lo largo de la historia han descrito los paisajes que aparecen en la obra literaria. Lo que quizás no se ha trabajado tanto es la búsqueda de la configuración de un paisaje, porque parece que siempre se ha entendido que la literatura recrea paisajes existentes, pero no crea sobre esos paisajes nuevas visiones. Y lo que nosotros planteamos desde la retórica cultural, que no es más que los discursos que ideológicamente, estéticamente, etcétera, definen una cultura determinada, lo que mantenemos es que la literatura es una fuente, además de la pintura y de otras artes, igual que la arquitectura, igual que la fotografía, para reescribir paisajes que ya existen, pero además esa reescritura forma parte de la conciencia social. Es decir, en el caso además de Doñana, la imagen que muchos de nosotros tenemos de Doñana nos ha venido a través de la literatura, porque mucha gente no ha ido nunca al Parque Natural de Doñana, o lo conoce muy poco, o no sabe cuestiones geográficas o físicas. Y la imagen que tiene de Doñana es esa. Entonces, en el caso, por ejemplo, que es muy evidente, la idea de los humedales como lugares insalubres, sabes que lo hemos comentado más de una vez, en gran parte, con independencia de que políticamente se haya dado esa idea de esa zona y se hayan pues replantado humedales con eucalipto para desecar las lagunas, etcétera, literariamente hay toda una tradición que recoge esa idea malsana del humedal. Y, por supuesto, es una tradición que tiene su sentido, y es que en determinados momentos de la historia la literatura denuncia la rudeza del trabajo agrícola que se hace en los humedales o la dureza del trabajo que se hace en las viñas, en contraposición, por ejemplo, en el caso del viñedo, con la vida usual en la bodega, una vez que se ha hecho la recolección de la uva. Entonces, tanto el arrozal como la bodega, como otros paisajes que tienen que ver con la agricultura, con el ganado y con el comercio, tienen efectivamente connotaciones económicas, sociales, etcétera, positivas y negativas, pero es que literariamente tiene connotaciones positivas y negativas. Y en muchos casos, además, la literatura de viajes romántica construyó una idea que estaba absolutamente alejada y que era idealizada, y que luego la propia literatura se encargó, con otra serie de estéticas y de corrientes, de contraponer para contrarrestar esa imagen. Question. Mais que la littérature crée le paysage, j'y pensais ce matin quand Ferréol Salomon nous a montré les textes sur l'embouchure, sur le delta du Tibre. C'est des textes de même époque qui nous disent, voilà, c'est un petit delta, c'est une petite embouchure, il y a plein de problèmes. Et puis, il y avait Cicéron à côté, à peu près milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui dit large embouchure. Bon. Mais on sait très bien que les descriptions de Cicéron dans lesquelles il parle du Tibre sont des descriptions idéologiquement très orientées sur comme c'est merveilleux que Rome ait été fondée à 20 kilomètres de la mer, pas trop loin mais pas trop près non plus des dangers de la mer, avec ce Tibre merveilleux, régulier, large, qui... Bon, il y a quelque chose d'idéologique et de recréation de paysage, voilà, et c'est intéressant de confronter les différents points de vue, mais bon. Sí, efectivamente, los textos, tal como habéis presentado aquí, están más bien como son comentarios contemporáneos que en cierto modo no dicen tanto sobre cómo eran o están, pero más sobre la sociedad que es producidora de la comprensión cultural del tiempo, ¿no? Sobre todo sobre el imaginario. Exactamente. Poi, sí, el imaginario y poi anche el pensiero ideológico en el cual el test es fatto, porque el testo de Cicerone al cual aludevo es veramente un testo para exaltar la grandeza de Roma. Allora, en este caso, no puedes decir, ma questo fiume non va, quindi la foce del Tevere diventa una grande foce, eccetera. Quindi dipende anche dall'uso che è stato voluto anche dell'autore sul testo che ha scritto. Sì, una cosa, una cosa che credo impedire è che hasta che modo le immagini che hai presentato también sono sujetas al mismo sujetito al mismo tipo di composición cultural, digamos, ¿en qué sentido hay un conflicto entre ellos? No, lo que he querido cruzar con las imágenes, y por eso hay tantas reproducciones pictóricas, sí, y no son fotografías, en muchos casos son acuarelas, cuadros, claro, es como al mismo tiempo que estoy hablando de la literatura, la pintura también está recreando el mismo espacio. Y está recreando el mismo espacio en momentos diversos, incluso contraviniendo lo que se describe en el texto. Entonces, la idea es que la línea de investigación debe de ser absolutamente transversal, porque no podemos, a la interpretación literaria se une la interpretación pictórica y la interpretación fotográfica, hasta tal punto que en muchos casos, y por ejemplo en el caso del desarrollo de la tecnología en la ilustración, en el aspecto de las lentes, ¿no?, el cómo se va transformando los objetos que sirven para observar la naturaleza transforma la mirada del pintor, del literato, etcétera. Y hay una interacción entre la evolución, digamos, tecnológica y la forma de mirar las litografías, los cuadros, de representar todo aquello, incluso en el caso de las representaciones que son utilizadas para el urbanismo de las ciudades. Uh-huh. Y está influenciado por las corrientes estéticas de pintura, y evidentemente todas las corrientes estéticas tienen su correlato en la pintura, en la literatura, en cualquiera de las expresiones artísticas. Y yo he querido cruzarlo, uh-huh, para abrir precisamente ese ámbito. Voy a intentar ordenar alguna idea, pero ¿cómo le has llamado? ¿Crítica textual? ¿Retórica? Retórica cultural. Cultural. Yo creo que el método es válido, en el sentido de es válido en el caso de aplicarlo también al análisis de la literatura antigua, ¿no? Creo que hay un método, porque estos autores culturales que generan estas obras, estas pinturas o estas fotografías, viven del mismo contexto cultural en los que han estado formándose nuestra historiografía que ha planteado los tópicos históricos sobre los cuales muchas veces analizamos el pasado. Eso por una parte. Por otra parte, está analizando la representación social y, o cultural de este espacio, de sus valores, en una época determinada, que creo que tiene validez para también intentar acercarnos a la representación cultural de este espacio, en este caso la desembocadura del Guadalquivir, en la antigüedad. Y estoy pensando que, sobre todo, intentando conectar lo que nos has presentado con lo que yo sé de las fuentes literarias que hablan de del Guadalquivir en la época antigua, que sobre todo lo que predomina en este discurso es el mito. Y la mitificación de ese espacio está desde las fuentes arcaicas griegas hasta la actualidad. No es una representación real del espacio, ni ahora, ni entonces. Luego creo que el método lo puedes aplicar ahora y lo puedes aplicar también pues a este sícoro, por ejemplo, ¿no? Es una reflexión que creo que... Y no sé si comparte esto de que el mito tiene más peso que el resto de los elementos que has analizado, porque también trasciende. Está mitificado la rosal, está mitificado el vino, está mitificado el espacio, el entorno natural, etcétera, etcétera. Sí, y es que además la literatura relee sus propios textos literarios y desde los clásicos hasta la actualidad es muy usual que los textos literarios remitan a textos literarios clásicos y a los grandes autores clásicos. Entonces la descripción está ahí cruzada. Hombre, aquí también está muy acentuado el mito porque yo he ido a elegir específicamente todo aquello que representaba el mito un poco por la línea del congreso donde estábamos, ¿no? Pero evidentemente podemos buscar más cosas. En ese sentido, la retórica cultural no es más que una forma de estudio que surge además de todas las corrientes semióticas que se desarrollan con los trabajos en el siglo XX, por ejemplo, en la línea de Umberto Eco de la interpretación y la interpretación de los textos, ¿no? Es una vía que analiza el discurso como una forma de manifestación cultural. Entonces, todo tipo de discurso que representa una ideología, que representa un modo de vida, que representa una forma de concebir la realidad. Y en esos tipos de discurso están los discursos artísticos y entre ellos el literario. Por cerrar, para terminar, para no cansarle, esta diapositiva tenía una doble intención, porque aquí están más o menos representados todos los paisajes que aparecen en el Guadalquivir, pero todos son obras pictóricas. Y evidentemente estamos hablando de cómo la literatura recrea la realidad y cómo imagina cosas nuevas. Pero es muy usual también que se diga que la propia realidad a veces supera la ficción. Y me parecía que esa imagen de Doñana era magnífica, porque eso es Doñana realmente, de una imagen real, no es una imagen, pero podría ser perfectamente el escenario, de hecho ha sido el escenario de una última película, y podría ser el escenario de una novela, justo esta imagen, que es una imagen real de Doñana. Entonces me parece que los fractales eran un buen ejemplo para contraponer a todas esas visiones del paisaje en ese sentido, porque lo que hacemos es sobreponer discurso, y nosotros somos la suma de muchos discursos sobrepuestos y de muchas interpretaciones. Entonces, por eso decía al final que nosotros somos los que decidimos cómo queremos interpretar el paisaje. Cuando el hombre decide intervenir en una zona geográfica determinada, tiene una intención y tiene una ideología y una forma de entender el paisaje. Por eso a lo mejor ahora se están recuperando estos espacios naturales porque ha cambiado la forma de concebir eso, pero para un ilustrado era absolutamente normal intentar domar la naturaleza y controlarla, ¿no? Y era parte de su cultura y de su ideología. Entonces, un poco iba por ahí. Muchísimas gracias. ¿Ci sono altre domande? ¿Y a les autres questions? Allora, moltissime grazie. Grazie.